2024 di Enrico Pagliarini. Inauguriamo il mese di agosto con la nostra puntata dell'1 e 2 agosto 2009. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale è 2024@radio24.it e come ogni settimana vi ricordo che questa puntata sarà disponibile attraverso il servizio podcast di Radio 24. Trovate tutte le informazioni su www.radio24.it nelle pagine di 2024, ma come stanno facendo settimana dopo settimana sempre più ascoltatori, una volta che vi siete abbonati gratuitamente a questo servizio tramite software particolare come ad esempio iTunes, che gestisce la parte del podcast, beh, una volta che vi siete abbonati non avete più problemi di aggiornamento, cioè basta che schiacciate un bottone oppure che mettiate un aggiornamento automatico e le puntate di 2024 vengono scaricate sul vostro computer. Se volete maggiori dettagli potete scriverci una email. Sicuramente la notizia più importante e anche interessante della settimana, beh, potremmo dire anche degli ultimi mesi, riguarda Yahoo e Microsoft, che hanno annunciato ufficialmente un accordo per collaborare nel settore dei motori di ricerca e della pubblicità su internet. Naturalmente, ma non solo, per fare concorrenza a Google e cercare di colmare il gap che li divide dal numero uno del settore. Questa intesa avrà una durata di 10 anni, che in termini di questo mercato tecnologico sono un po' come 100 anni per altri sistemi economici, e dovrebbe diventare operativa dal prossimo anno. Naturalmente ci sono tutta una serie di step da passare, come quello delle autorizzazioni delle autorità, dell'autorità antitrust negli Stati Uniti, ma probabilmente tutto andrà a finire per il verso giusto, quindi dal prossimo anno dovremmo vedere gli effetti di questo accordo. Come molti di voi sanno, di un'alleanza tra Yahoo e Microsoft in chiave anti-Google si parla almeno da 4-5 anni. Abbiamo assistito a mesi e mesi di trattative interrotte, riprese più volte, culminate con il grande rifiuto di Yahoo, forse potremmo dire del numero uno di Yahoo in primis, un po' in lotta con una parte degli azionisti, il grande rifiuto all'offerta di acquisto per più di 47 miliardi di dollari che lo scorso anno erano stati messi sul piatto da Microsoft per acquistare Yahoo. Forse meglio un accordo anche per gli azionisti della Microsoft, che così evitano di pagare tutti questi soldi. Mercoledì è arrivato l'annuncio di questa collaborazione che, come dicevo, dal 2010 prevederà l'utilizzo anche da parte di Yahoo di Bing, il nuovo servizio di ricerca online lanciato in pompa magna da Microsoft in giugno. Ne avevamo parlato. Questo nuovo motore di ricerca si chiama appunto Bing, con la B di Bingo, www.bing.com. Yahoo abbandona così il settore delle ricerche, cioè la tecnologia che verrà utilizzata sarà prevalentemente, non solo perché c'è anche uno scambio di tecnologie, ma sarà prevalentemente quella di Microsoft. Si potranno fare ricerche anche sul sito internet di Yahoo, ma basandosi sul motore di ricerca. Vedrete che ci sarà una scritta, come molti immaginano, powered by, quindi il sito di Yahoo funzionerà almeno nel settore della ricerca grazie a Bing. Dicevo, abbandona questo segmento, si concentrerà nella produzione e aggregazione di contenuti e naturalmente nella vendita della pubblicità, insomma farà quella che gli esperti dicono la cosiddetta media company. Sicuramente c'è una distanza da colmare molto ampia per fare concorrenza a Google, perché negli Stati Uniti, e se guardiamo al resto del mondo ci sono alcune aree dove le cose vanno ancora meglio per Google, comunque nei soli Stati Uniti Google controlla almeno il 65% del mercato, mentre Yahoo e Microsoft insieme non arrivano al 30%, e qua stiamo parlando solo delle ricerche che vengono effettuate su internet, non stiamo parlando del mercato pubblicitario collegato con le ricerche, dove Google domina con un margine ancora più ampio. Certamente oggi però questa accoppiata tra Yahoo e Microsoft si pone come secondo player del mercato, potremmo dire un po' più credibile, con una massa critica che dovrebbe rendere meno pesanti i forti investimenti che sono necessari per fare crescere il motore di ricerca. Per capire quale scenario si apre dopo questo accordo. È con noi il professor Carlo Alberto Carnevale Maffè, che insegna strategia alla SDA Bocconi. Bentornato a 2024. Grazie a voi, buongiorno. Un accordo che, lei dice professore, fa diventare, o meglio fa tornare Microsoft simpatica e fa rivedere anche una certa vivacità di Microsoft che forse negli ultimi anni, soprattutto su internet, nel mondo della ricerca in generale, poi nei servizi su internet, avevamo visto poco vivace, poco brillante. Perché torna simpatica Microsoft? Perché Google, che è nata già in burrasca del mondo dell'informatica, del web, avendo sconvolto gli equilibri, è diventata ormai così potente, così inscalfibile nel suo dominio, che rischia l'antipatia, rischia la ridondanza, è talmente presente su tutti i fronti dell'innovazione da generare inquietudine, sapendo quello che fa dei nostri dati e delle nostre ricerche. Il ritorno di Microsoft su questo fronte, con un buon prodotto che è Bing, il suo nuovo motore di ricerca, con un accordo che sicuramente fa bene a Microsoft, la rende simpatica, la rende challenger, cosa che insomma Microsoft non è abituata a fare, la rende concentrata a far bene le cose che invece Microsoft ha dimostrato di saper fare, cioè le piattaforme, le infrastrutture tecnologiche standardizzate a livello mondiale. Su queste cose Microsoft ha certamente una robusta tradizione e grande credibilità. Sposandosi operativamente, anche se non azionariamente, con Yahoo, dà vita a una buona squadra in cui c'è la freschezza e la immediatezza di Yahoo e c'è la robustezza tecnologica di Microsoft, che si mettono insieme a sfidare a questo punto il nuovo grande incumbent, il nuovo grande dominante che è Google. E il mercato ha bisogno di una Microsoft schierata sul fronte dell'innovazione, ha bisogno di una Yahoo rivitalizzata e concentrata sui nuovi business. Al di là di quello che ci ha detto la borsa subito dopo l'annuncio di questo accordo, c'è chi sostiene negli Stati Uniti, ma non solo negli Stati Uniti, che sia una grande vittoria per Microsoft e di fatto una sconfitta o una mezza sconfitta per Yahoo. È certamente una grande opportunità per Microsoft. Microsoft fa l'accordo più importante che poteva fare, non spende un centesimo e ottiene il risultato di trasformare il suo Bing, il suo nuovo motore di ricerca, nel secondo standard di riferimento sul mercato. Effettivamente il prodotto c'è, è buono, gode di ottime recensioni, sta acquistando rapidamente quote di mercato, da solo non ce l'avrebbe fatta, insieme a Yahoo certamente avrà spazio per crescere e per sfidare Google. Ha forse trascurato la qualità del suo motore di ricerca, che indiscutibilmente fino a pochi anni fa era il migliore. Negli ultimi due anni, un po' complice la grande dispersione di Google su molti fronti, si è un po' rallentato lo sviluppo del motore di ricerca. Secondo tutti gli analisti c'era bisogno di una sfida competitiva e c'era bisogno di un diverso approccio alla ricerca, più rigoroso e in un certo senso più robusto, e la presenza di Microsoft su questo è di buon auspicio. Yahoo ha perso? No, Yahoo certamente ha perso l'occasione dell'anno scorso, che era l'occasione della vita, vendere a $44 l'offerta che gli era arrivata, l'azione di Yahoo, sarebbe stato per gli azionisti di Yahoo certamente la cosa migliore. Non sono sicuro che lo sarebbe stato per tutti i milioni, decine, anzi centinaia di milioni di utenti di Yahoo nel mondo. Rispetto a questi ultimi, quindi invece Yahoo esce da questo accordo avendo rinunciato a velleità che non poteva permettersi, che non aveva i soldi, le risorse per poter competere su tutti i fronti nei confronti di Google, e invece ne esce con un mandato chiaro: fare la nuova media company molto orientata al social networking, che fa il front-end innovativo di tecnologie affidate a partner standard internazionali. Questa invece secondo me è una grande opportunità. Gli azionisti reagiscono male nel breve, perché si aspettavano, ed era legittimo aspettarsi, un immediato esborso di cassa da parte di Microsoft che avesse rimpinguato le scarse casse di Yahoo. Così non è stato e quindi la borsa ha reagito male tatticamente. Io invito tutti a leggere invece il significato strategico dell'operazione, che dà a Yahoo grandi opzioni di sviluppo. E quindi Yahoo secondo me rinascerà da queste ceneri come una media company innovativa per il futuro di Internet, e ne abbiamo tutti bisogno, perché serve stabilizzare, serve sperimentare nuovi modelli di business, visto che quelli vecchi, basati semplicemente sulla pubblicità tabellare, soprattutto in momenti di crisi, stanno dando grandi segni di difficoltà. Osservando gli investimenti che ha fatto Microsoft e continua a fare nel settore della ricerca, perché è vero che qua non si tratta di un investimento diretto, perché l'accordo è fatto senza esborso di denaro, però l'investimento nel motore di ricerca Microsoft lo sta facendo, e anche pesantemente. Possiamo dire, soprattutto per i non addetti ai lavori, che questo è e sarà il settore che farà guadagnare di più in ambito web? È sicuramente il settore che ha il modello di business più radicato e circostanziato e più leggibile. Lo ha messo a punto con grande intelligenza Google, a cui riconosciamo tutti la capacità imprenditoriale di avere trasformato quello che era un dato accessorio, cioè la ricerca di informazioni apparentemente irrilevanti sulla open internet, trasformarlo in un business solido, chiaro, in cui il prezzo per contatto, il prezzo per click hanno un valore percepibile dal mercato e in forte crescita. Non è ancora detta l'ultima parola, il settore della search, che ha dominato il mercato pubblicitario, ha attratto la gran parte della spesa pubblicitaria che si indirizzava in internet, non è ancora stabilizzato, pur essendo e rimanendo il più promettente. Certo, bisogna trovare nuove modalità di interazione fra la mera search, che di solito è il punto di partenza di tutti noi, è il primo passo dentro al grande mondo di internet, ma non necessariamente l'unico. Ecco, l'accordo Microsoft Yahoo scommette sul fatto che la search può diventare grande, e dalla mera facilità di accedere diventa percorso e quindi modello di business, e quindi processo economico, e quindi opportunità di sviluppo. Certo, è un'area ancora da sperimentare. Fino adesso sappiamo che l'area search, quindi il motore di ricerca, produce buoni risultati ed è un modello di business sostenibile. Quello che ci sta sopra, i social networking, il mailing, i servizi personali, invece devono ancora coagulare una sostenibilità finanziaria chiara, ma nel momento in cui le aziende si concentrano su questo e non disperdono le energie, la probabilità che questo diventi verità, la probabilità che per esempio gli utenti siano disposti a pagare per un livello di servizio, anche pochissimo, per un livello di servizio più alto, più pulito e più immediato, questo non è da escludere, anzi è in un certo senso l'auspicio di tutti gli analisti. Io ringrazio per essere stato con noi e per averci fatto capire, insomma, che cosa c'è al di là di questo accordo, che di fatto è semplice, ma appunto gli scenari sono un po' più complessi. E ringrazio il professor Carlo Alberto Carnevale Maffè per essere stato con noi. Buon lavoro, a presto e anche buone vacanze visto il periodo. Grazie a voi. Adesso cambiamo argomento, parliamo di reti di prossima generazione. Sapete che nel paese si continua a parlare di Next Generation Network, della rete di prossima generazione, uno dei temi di cui parliamo spesso a 2024, ne parliamo forse almeno da 2 anni, anche se siamo tra i pochi, un tema invece estremamente importante. Sapete che nel paese si dovrebbe lanciare un piano nazionale per posare fibra ottica e dotare anche l'Italia di una infrastruttura che potrà supportare il traffico in crescita della rete internet. Ma visto che a livello nazionale poco o nulla si sta facendo, sono da tenere in considerazione i progetti locali. Ci sono progetti pubblici finanziati dagli enti pubblici a livello regionale o comunale. La settimana scorsa abbiamo parlato del caso di Venezia, che a meno da un paio di anni sta posando fibra ottica. Parleremo sicuramente anche di quello che sta facendo la regione Emilia-Romagna, che sta posando fibra ottica per connettere ad alta capacità tutti gli enti pubblici regionali. In questi casi, o in altri casi dove gli enti pubblici finanziano la posa di fibra ottica, sicuramente al momento il beneficio ce l'ha la pubblica amministrazione, ma in un secondo momento questa fibra, vista la grande capacità che ha la fibra, potrebbe essere aperta anche al settore privato e poi arrivare direttamente alle case dei cittadini. Questa settimana, visto che ci sono oltre che progetti pubblici anche progetti privati, questa settimana è stato presentato un progetto che si intitola Roma Città Digitale, fortemente voluto dall'Unione degli Industriali di Roma, e di questo parleremo tra poco a 2024. Vi aspettiamo. 2024. Vi ricordo che nella seconda parte di 2024 parleremo di navigatori satellitari, un settore che è sempre sotto i riflettori perché ci sono novità mese dopo mese, forse anche settimana dopo settimana, potremmo dire, comunque ne parleremo più tardi. Adesso, come dicevo poco fa, parliamo di un progetto che è stato presentato questa settimana a Roma, che punta ad essere la prima città digitale in Europa entro il 2014. Ai 2000 km di fibra ottica già presenti in tutta la città se ne aggiungeranno altri 4000 grazie ad un investimento di 600 milioni di euro. Un investimento a capitale privato, dicevamo che ci sono investimenti per dotare il paese di nuova capacità, di una rete di prossima generazione, soprattutto a livello locale. Probabilmente vedrete che nei prossimi anni i più grandi sviluppi ci saranno proprio a livello cittadino o regionale, grazie alle pubbliche amministrazioni locali che stanno investendo e grazie anche agli investimenti privati come questo del caso di Roma o di altri casi in giro per l'Italia, ma questo sicuramente è un investimento molto interessante, molto importante, anche perché la città è molto grande, stiamo parlando di Roma. Ne parliamo con Maurizio Tarquini, che è il direttore generale dell'Unione degli Industriali di Roma. Benvenuto, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti. Questo progetto Roma Città Digitale, già dal titolo ci dice qualche cosa. Il cuore del progetto è la fibra ottica, un progetto che da qui al 2014, quindi grosso modo nei prossimi 4-5 anni, porterà nuova fibra alla città. Beh, partiamo proprio dall'idea principale che vi ha portato poi a presentare questo progetto. Il progetto è complesso nella sua realizzazione, ma molto semplice come idea, voglio dire. Oggi disponiamo di fibra ottica di nuova generazione, quindi con la capacità di portare segnali a 100 megabit al secondo in maniera costante, quindi siamo alla larghissima banda, no? Tenuto conto che Roma è una città, voglio dire, che vive di scambio di informazioni e di dati, teniamo conto che comunque essendo la capitale ha tutti i ministeri, la maggior parte delle banche hanno sede anche a Roma, voglio dire, è la città con la più alta densità di occupati nel settore informatico, è comunque un bacino da 4 milioni di persone. Cercare di tenere il passo, anzi possibilmente per qualche anno stare anche all'avanguardia per quanto riguarda la capacità di passare informazioni via rete, era un fatto fondamentale. E quindi abbiamo in qualche modo sospinto, voglio dire, un progetto che ovviamente riguarderà tutta l'Italia, ma abbiamo sospinto cercando di farlo partire il prima possibile su Roma e quindi, voglio dire, con una certa fatica, voglio dire, con qualche difficoltà ovviamente di tipo burocratico, tanto più per la realizzazione degli scavi, voglio dire, siamo riusciti a bruciare un po' i tempi e quindi abbiamo con grande soddisfazione, dopo l'estate cominceremo i lavori in un quartiere romano che è Prati. Da lì nel giro di 4-5 anni, voglio dire, l'intera città dovrebbe essere cablata a 100 megabit al secondo. 100 megabit al secondo ovviamente costanti e reali, non potenziali, significa rispetto alla banda larga tradizionale che è nominale 20 mega, ma poi di fatto quando va bene 6 mega, 7 mega, significa 15 volte più veloce. Sì, poi sappiamo che questo limite dei 100 megabit oggi è dato dalle tecnologie con le quali si trasmettono i dati sulla fibra, poi la fibra potenzialmente potrà arrivare oltre. Senta, Tarquini, portare la fibra in buona parte della città, poi magari ci dirà anche quali sono i confini di questo progetto, verranno scavate trincee come succedeva all'inizio? Fortuna, voglio dire, anche qui il progresso ci aiuta, nel senso che è per questo che abbiamo dovuto lavorare insieme al Comune per modificare il regolamento scavi. Il regolamento scavi attuale di tutti i comuni italiani prevede uno scavo che ha dimensioni standard, quelle che conosciamo, quindi scavi ampi. Oggi c'è la possibilità di lavorare per inserire questo tipo di cavi nelle cosiddette mini trincee, quindi uno scavo fatto largo 10 centimetri, profondo 20, che si fa con una specie di toserba che fa lo scavetto al lato del vicino al marciapiede, e mentre si scava si passa il cavo, la fibra. Sì, quindi abbastanza veloce, insomma, questo processo. Abbastanza veloce, 200 metri al giorno, 200 metri al giorno chiuso, compresa diciamo di apertura e chiusura. Quanta fibra verrà messa in tutta la città, e soprattutto per città che cosa intendete? Città intendiamo tutta l'area dentro il raccordo anulare, più diciamo la parte più densamente abitata fuori raccordo, quindi Guidonia, sulla Tiburtina, Ostia, Fiumicino, Ostia verso il mare e così via, diciamo tutti i quartieri densamente abitati, quindi una copertura in termini di popolazione del 97%. Quindi sì, piuttosto ampia. Voi con questa fibra arriverete dove? Al palazzo oppure? Al palazzo, arriveremo direttamente nei palazzi, fra l'altro sempre con diciamo queste tecnologie di scavo nuove, il tratto dalla dorsale al palazzo in molti casi si potrà realizzare utilizzando una sorta di talpa, quindi senza scavo superiore, senza scavo a luce aperta, ma facendo passare come quando si passa un corrugato, un filo nel corrugato, quindi una mini talpa che va sotto, che fa un leggero scavo e che si tira il corrugato con la fibra, e quindi senza neanche rovinare il marciapiede. Chi paga questo progetto, visto che le risorse sono scarse? Infatti, diciamo, il progetto è coperto da capitali privati, da capitali delle aziende, degli operatori, quindi ovviamente prevalentemente Telecom, ma anche ovviamente Fastweb e gli altri, perché fra l'altro nel progetto c'è un beneficio, e questo è molto importante, di aumento di velocità di trasmissione anche per la rete mobile, perché la rete mobile dei ponti radio verrà diciamo collegata anch'essa attraverso fibra. Sì, alimentata. Certo. E questo qui dovrebbe consentire di arrivare ai 28 megabit sul cellulare. Ecco, quindi è un investimento privato, quindi questa diciamo per il pubblico è una buona notizia, ma la rete sarà aperta o sarà insomma degli operatori che pagheranno il progetto? Allora, la rete ovviamente vale il principio dell'open access, la regolazione è quella che fa l'authority, che stabilisce che ovviamente la rete può essere previo pagamento di pedaggio, di uso, sì, utilizzata anche dagli altri. Ovviamente nel momento in cui un quartiere, una zona viene passata a fibra, l'investimento viene fatto da più operatori, la rete è di tutti e due. Chiaro, chiarissimo. Senta, avremo una consultazione a macchia di leopardo, ma sostanzialmente aperta. Voi naturalmente siete particolarmente interessati alle imprese, allora le faccio una domanda, mettendomi nei panni di un imprenditore, concretamente per diciamo allacciarsi a questa rete bisognerà aderire alle offerte degli operatori o potranno essere insomma delle vie preferenziali o delle domande direttamente fatte all'Unione Industriale o ad altro ente? Ma questo ancora non l'abbiamo sviscerato, però sicuramente diciamo aspettiamo di vedere diciamo i pacchetti di offerta. È chiaro che noi saremo molto attenti a far sì che diciamo la rete non sia un beneficio per pochi, fra l'altro non avrebbe senso che abbia una città per poi farla utilizzare a pochi soggetti, no? Chiarissimo, certo. E quindi tenendo conto anche del fatto che noi abbiamo sempre nella logica impresa ovviamente un altro grande interesse, è stato stimato che ogni euro investito in fibra vale 5-6 euro di incremento di PIL, perché ovviamente sulla rete, che è una sorta d'autostrada, poi ci saranno i servizi, che sono i nuovi servizi che resi disponibili da questa tecnologia, che per noi è l'altro volano di sviluppo. Quindi la rete ci interessa anche perché ha un grande effetto moltiplicatore sul PIL. Pensare alle potenzialità di utilizzo, diciamo in maniera assolutamente semplice, di sistemi di videoconferenza, no? Ad alta definizione da qualunque postazione. Oggi la usiamo la videoconferenza, però non è, diciamo, abbiamo come dire un senso di virtualità molto forte. Sì. Diciamo, sì, diciamo che in un caso del genere anche immagino alcune riunioni a livello ministeriale possono essere fatte rimanendo fermi. Perfetto. Immaginiamo anche, per fare degli esempi banali, ma che poi sono quelli significativi, la trasmissione di un attack con una definizione, diciamo, pari all'originale in 4 secondi da un ospedale a un altro. Sì, lei ha fatto bene a sottolineare questo aspetto che spesso viene poco valutato, cioè quello del valore che ha appunto la banda larga all'interno di una comunità ampia come può essere una città grande come quella di Roma, ma insomma anche all'interno di un paese. Per cui io la ringrazio per essere stato con noi. A presto, arrivederci. Naturalmente noi siamo sempre attenti ai progetti che vengono lanciati in tutta Italia. Se siete a conoscenza o state partecipando addirittura ad un progetto di questo genere, piccolo o grande che sia, beh, segnalatelo al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Tra poco parleremo di navigatori satellitari, questo è 2024, ci risentiamo dopo una breve pausa. Siete all'ascolto del primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Io sono Enrico Pagliarini, andiamo in onda il sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 15.30 e le 16.30, oppure durante tutta l'estate, anche la domenica sera tra le 22 e le 22.45. Trovate poi la nostra puntata originale sul nostro sito internet, il lunedì pomeriggio tra le pagine di 2024 trovate tutte le indicazioni anche per scaricare il file MP3 in podcast. Sono sempre più le persone, i nostri ascoltatori, che downloadano automaticamente, grazie ad un abbonamento al servizio podcast di Radio 24, la nostra puntata. È tutto molto semplice, forse per chi non è abituato a utilizzare questo sistema le prime mosse sono un po' complicate, ma se seguite le informazioni che sono sul nostro sito internet alla voce podcast, oppure se ci inviate una email, vi daremo tutte le indicazioni. E quindi potete poi riascoltare la nostra puntata quando preferite, magari anche a pezzetti, 10 minuti al giorno. Adesso parliamo di navigatori satellitari. Sicuramente per, almeno per i turisti, l'estate è il momento in cui si ha più la necessità di avere una guida per raggiungere un posto piuttosto che un altro, insomma ci si muove di più, meno è l'esigenza per chi di mestiere viaggia tutto l'anno, c'è questa esigenza per chi sta su un'automobile, su un furgone, su un camion, ma oggi ne parliamo con Massimo Morandi, il nostro esperto di mobilità, direttore di Smartphone Magazine e anche di Cellulare Magazine, e tra l'altro recentemente Massimo ha guidato la realizzazione di una guida dedicata proprio ai navigatori satellitari, si chiama proprio così, Navigatori Satellitari. Massimo, bentornato a 2024. Grazie Enrico, un saluto a tutti. Parliamo di navigatori satellitari, di navigazione potremmo dire. Io ho due domande che, se vuoi, posso anche farti tra poco. Perché i navigatori costano ancora così tanto? Perché secondo me costano troppi soldi, o comunque vedo che negli ultimi tempi il prezzo non si è abbassato con il ritmo con cui si abbassava fino a qualche tempo fa. Anche perché mi par di capire, leggendo di qua e leggendo di là, che la tecnologia all'interno è molto è poco costosa, tant'è che sono sempre diffusi anche i cellulari che hanno la tecnologia tipica dei navigatori satellitari, ma poi tu mi dirai. E poi l'altra domanda è, mi sembra di capire che oramai i navigatori non servono quasi più per andare da A a B, cioè questo lo fanno un po' tutti. I navigatori si stanno trasformando e stanno diventando delle cose un po' più complicate, un po' più complesse. Allora, parto dalla tua seconda domanda. Sicuramente da A a B ci portano tutti i navigatori che oggi troviamo sugli scaffali dei negozi. Quindi se la nostra esigenza è andare da casa a un posto, che ne so, di vacanza, oppure viaggiamo per lavoro e vogliamo sempre arrivare ad una destinazione particolare, più o meno grosso modo quasi tutti ci portano tranquillamente. Naturalmente con modalità diverse, con interfacce più o meno facili, con mappe più o meno belle. In realtà questo non è più il problema su cui si stanno concentrando i produttori di navigatori satellitari. Da A a B, come abbiamo detto, ci portano tutti, ma si sta cercando di approfondire l'esperienza di viaggio all'interno del mondo del navigatore. Quindi il navigatore non deve più servire solo nel momento in cui saliamo in auto e decidiamo di andare in una determinata via o in una determinata città. Ci deve servire prima di salire in auto, durante il nostro viaggio, accompagnarci durante tutto il viaggio e addirittura dopo, perché l'idea di chi produce i navigatori è che il navigatore deve scendere dalla macchina con noi, perché sul navigatore noi dobbiamo essere in grado di fare altre cose, di preparare il viaggio prima, di vedere dove fermarci, di trovare gli alberghi, gli hotel, i ristoranti, di capire cosa possiamo fare in una determinata città e aiutarci anche, una volta che siamo giunti a destinazione, a girare quella città, a girare il luogo in cui ci siamo recati e a trovare i punti di interesse. Insomma, il navigatore deve diventare una guida turistica tascabile. Non è più un navigatore, ma un accompagnatore turistico, praticamente. Deve essere così, esatto. Senti, cosa significa? Poi naturalmente c'è la seconda domanda. I prezzi, poi parliamo dei prezzi. Volevo capire, prima del viaggio, cosa significa? Prima del viaggio significa che noi possiamo programmare a tavolino il nostro itinerario. Spesso si sale in macchina, si è abbastanza di fretta, si deve digitare una via, una destinazione, capire che tipo di percorso fare, se scegliere un'autostrada, una strada statale, insomma. Tutto questo possiamo farlo anche prima, possiamo pianificarlo prima e possiamo anche pianificare i punti dove su questo itinerario noi desideriamo fermarci. Quindi diciamo che questa è un'attività che magari molti fanno, chi ha la possibilità, naturalmente, che ha un computer, magari un collegamento ad internet, è una cosa che si fa con internet. Allora, questo è possibile sia sul computer, ma io parlavo già dei nuovi navigatori di nuova generazione, perché un po' di questo parleremo. Quindi dei navigatori che al loro interno hanno tutto e quindi sono autosufficienti, quindi noi possiamo anche sederci sul divano del nostro salotto senza avere un computer, accendere il navigatore e capire cosa fare. Perché? Perché i navigatori alla fine cominciano davvero ad avere delle vere e proprie guide turistiche al loro interno. E nelle guide turistiche, come nel cartaceo che possiamo sfogliare seduti comodamente in salotto, troviamo i musei, troviamo i ristoranti, troviamo gli alberghi con i numeri di telefono. Quindi veramente un'interattività più alta per chi deve viaggiare. Tu hai parlato di automobili, perché spesso il navigatore satellitare, che si basa sui segnali del GPS, e speriamo tra qualche anno anche sul Galileo europeo, ma di questo abbiamo parlato altre volte, 2024 sicuramente riparleremo, dicevo, il navigatore satellitare viene associato all'automobile. Non è più così, cioè ormai la tecnologia che sta dentro questi aggeggi si è diffusa sui telefonini, ma anche su altre cose. Si è molto diffusa, e con il diffondersi anche del concetto di questo tipo di navigazione che ho appena spiegato, quindi prima, durante e dopo il viaggio, in un certo senso viene chiamata navigazione personale. Il GPS, quindi la possibilità di muoversi su mappe all'interno del cellulare, sta prendendo molto piede ed è una delle funzioni di maggior successo. Se ne parla poco, ma avrei sicuramente notato che non solo gli smartphone di ultima generazione, ma anche i normali e tradizionali telefonini che hanno un prezzo di fascia medio-bassa oggi integrano il GPS e quindi possono avere mappe e software di navigazione. Proprio perché la navigazione diventa personale, la navigazione è sempre con noi, il telefonino ci segue sempre, è sempre nella nostra tasca, e dal telefonino possiamo fare molte cose, con un grandissimo vantaggio, che nel telefonino c'è la connettività a internet, alla rete, quello che manca ancora nella quasi totalità dei navigatori e che costituirà il prossimo passo della prossima generazione di navigatori satellitari. È molto importante, perché qualcuno che ci sta ascoltando, ne sono sicuro, starà pensando: beh, io il GPS nel mio telefonino ce l'ho, ma non prende, ma non va bene. È vero, abbiamo pagato uno scotto nella prima generazione, i primi GPS integrati facevano molta fatica a prendere il segnale, quindi a portarci a destinazione. Oggi devo dire che nei telefonini di nuova generazione i GPS sono veramente molto sensibili, funzionano molto bene, prendono anche quando il telefonino è in tasca e sono immediatamente pronti per essere utilizzati. Mi stai dando delle buone notizie, perché io ho pagato lo scotto, come tu dicevi, della prima generazione, e in effetti anche recentemente ho provato dei navigatori integrati ai telefonini. Noto che ci sono dei passi in avanti, però effettivamente mi è rimasta un po' l'idea che il navigatore integrato nel telefonino non sia poi questo gran prodotto. Quindi tu dici che i più recenti sono degli ottimi prodotti, i più recenti sono dei buoni prodotti. Alcune aziende poi hanno addirittura fatto, Nokia ad esempio ha addirittura inaugurato una gamma di navigator che sono proprio specifici anche per come sono messi i tasti, per il tipo di display che per integrano la navigazione. Per la navigazione satellitare devo dire che si traggono delle buone soddisfazioni. Le batterie come rispondono? Perché nel navigatore da auto le batterie insomma sono adeguate a viaggi lunghi, nel telefonino quello che io ho provato è che poi dopo poche ore... Guarda, hai toccato il vero punto dolente, questo è ancora il tallone d'Achille di tutti i tipi di navigatori, PND, quindi comunque piccoli scatolotti da auto, telefonini, però c'è anche da dire che oggi chi utilizza per lunghi spostamenti il navigatore satellitare in auto sa che in auto deve avere un cavetto e quindi comunque alimentare continuamente il suo dispositivo. Quando si scende dalla macchina invece, soprattutto con un cellulare, è diverso, sì. Si deve avere un'autonomia un pochino più ampia. Senti, a proposito di talloni d'Achille, ne vorrei toccare un altro, visto che i talloni sono due. Il secondo è il prezzo, quindi torniamo poi alla domanda iniziale. Mi pare che, almeno per una certa categoria, quelli più semplici, per i navigatori più semplici, i produttori potrebbero fare di più. Sì, naturalmente sul prezzo ci si potrebbero fare molte, molte riflessioni. Anche qui ormai c'è una fascia d'entrata attorno ai 100 euro, che è comunque secondo me una fascia abbastanza bassa per il tipo di dispositivo che ci si mette in tasca. Devo dire, forse da un lato sulla parte cellulare c'è un pochino più di equilibrio, perché avendo poi tutta la funzione, il comparto di telefonia, la fotocamera digitale, il GPS, le mappe, i prezzi sono un pochino più bilanciati. Cioè, diciamo che il navigatore non incide non incide molto, così tanto. In realtà poi bisogna dire che c'è tanta confusione ancora sugli scaffali, perché ci sono prodotti nuovi, prodotti meno nuovi, prodotti vecchi, cestoni con navigatori a 89 euro, quindi c'è molta confusione nel settore, questo sì, però secondo me i prezzi si sono abbassati. Senti, una parte fondamentale dei navigatori satellitari è costituita dalle mappe, naturalmente dai dati primari che vengono forniti sostanzialmente da due aziende in tutto il mondo, ma poi dai software che interpretano questi dati, cioè la via Tal dei Tali, via Garibaldi, in un determinato luogo si trova esattamente a quelle coordinate, ma il problema è poi come il navigatore interpreta la mappa e come ci porta. E questo è un po' il terreno su cui si giocano un po' i produttori? Sì, direi proprio di sì. Dal momento che le mappe sono uguali quasi per tutti, il navigatore migliore è quello che ti porta a navigare nella maniera più piacevole e ti rende l'esperienza di viaggio più semplice possibile. Due quindi sono le cose: il processore, naturalmente, che è all'interno del navigatore, che gestisce la velocità con cui vengono recepiti i comandi che noi diamo allo schermo. Naturalmente poi c'è lo schermo, perché a seconda del polliciaggio dello schermo hai una visione, un'esperienza di viaggio migliore. E poi c'è molto importante il software di gestione, che è l'interfaccia, cioè sono le icone che noi vediamo sul display e che pronte via, acceso il navigatore, ci guidano nella ricerca di una destinazione. E qui devo dire c'è forse la parte più, sembrerebbe la parte più facile, invece la parte più difficile, perché ci sono dei navigatori veramente veramente semplici da utilizzare, dove il manuale di istruzioni, ti assicuro, non serve, e altri navigatori che, pur funzionando molto bene, pur essendo dei dispositivi ad alta tecnologia, peccano proprio in facilità. Nei negozi si riescono a provare questi prodotti o no? Perché questo è un problema. Quando un navigatore satellitare, come tu ci dicevi, ha una differenza così elevata proprio su questo punto, se io non riesco a provarlo, un po' come diciamo spesso 2024, quando uno va a comprare un TV nuovo, provate il telecomando, che è la cosa che si tiene più spesso in mano, e a volte ci sono TV fantastici con telecomandi bruttissimi, fatti male, poco facili da utilizzare. Ecco, noti che chi vende faccia provare adeguatamente il navigatore oppure no? Io sarei molto critico su questo punto. Sì, infatti noi, proprio perché la differenza tra un'esperienza piacevole e un'esperienza ostica è così labile, così trasparente, così sottile, noi invitiamo sempre a provare anche solo per 2 minuti il navigatore. Certe volte bastano e avanzano, però devo dire che questo è spesso, non quasi sempre, ma spesso possibile nella grande distribuzione, dove ci sono dei veri punti dove si possono provare dei dispositivi che sono messi lì apposta, mentre invece in altri negozi è molto difficile perché è tutto in confezione, il negoziante non ti vuole aprire oppure una confezione. Anche su internet si trovano delle meravigliose offerte, però c'è l'impossibilità di provarli. Ma a conferma che questa cosa che hai detto è molto giusta, i produttori di navigatori stanno investendo molto sul punto vendita, perché hanno capito molto bene che una prova spesso è molto meglio di qualsiasi tipo di messaggio pubblicitario. Tu lo provi, ti piace, è semplice, lo acquisti. Senti, sul navigatore si possono cambiare le mappe? Cioè, diciamo, se io compro il navigatore di Massimo Morandi, mettiamo che tu sia un produttore di navigatori satellitari, posso, immagino, aggiungere alla mappa dell'Italia quella della Germania, della Francia, eccetera, eccetera, ma l'interfaccia di navigazione, il software, lo posso cambiare, così come su un computer io posso installare Linux o Windows o altri sistemi operativi, oppure... Allora, l'interfaccia, allora tutto si può fare chiaramente, però dobbiamo dire che assolutamente no, è anche meglio evitarlo, ovviamente si perde garanzia, si perde tutto, poi ci sono delle operazioni da veri e propri smanettoni, e tutto si può fare, però quello che si compra è quello che rimane. Si possono aggiornare le mappe, poi più tardi probabilmente ne parleremo, ma aggiornare l'interfaccia di selezione delle funzioni è un'operazione che sconsiglierei a chiunque. Quindi sì, diciamo, lo si può fare. Adesso ci fermiamo per un minuto, ci risentiamo tra poco, avremo anche un altro ospite per parlare di alcune novità, alcune tendenze che stiamo già cominciando a vedere, ma vedremo sempre di più nel mercato sempre più complesso e ricco della navigazione satellitare. Tra poco. Stiamo parlando di navigatori satellitari a 2024. Come abbiamo detto, la semplicità d'uso di un navigatore satellitare è quella che ancora fa in molti casi la differenza tra un prodotto ed un altro. Stiamo parlando sostanzialmente di software, del software che ogni produttore installa e utilizza. Su quello abbiamo pochi margini di cambiamento, nel senso che quando compriamo una marca, un prodotto, utilizziamo il software che fa funzionare la macchina. Possiamo invece aggiornare le mappe. Ci sono sostanzialmente due grandi produttori di dati cartografici, cioè quelli che vanno in giro fisicamente per tutto il mondo, e con un aggiornamento che arriva ogni 3-4 mesi, ma poi ne parleremo, cambiano ad esempio il senso unico che diventa un doppio senso, insomma fanno gli aggiornamenti alle mappe. Ecco, possiamo aggiornare le mappe, possiamo aggiungere punti di interesse, possiamo aggiungere anche alla mappa dell'Italia l'Europa e altri paesi del mondo. Dicevamo, vengono fatti questi aggiornamenti, un lavoro impressionante, incredibile in tutto il mondo, pensate, non dobbiamo pensare solo al nostro paese. Ogni quanto vengono fatti questi aggiornamenti? Abbiamo chiesto a Cristiano Ranalletta, che è responsabile marketing per il Sud Europa di Naftec. Naftec è appunto uno dei grandi player di questo settore, che è fondamentale, altrettanto importante quanto è il software di navigazione che ogni produttore di navigatori installa sul prodotto. E noi come Naftec rilasciamo 4 versioni ogni anno del database cartografico. Queste versioni vengono messe a disposizione dei nostri clienti, tendenzialmente diciamo i produttori poi dei sistemi di navigazione, o tendenzialmente chi sviluppa poi il software applicativo che va a prendere il dato cartografico. L'aspetto, a mio avviso, interessante da osservare è che non necessariamente poi i nostri clienti acquistano da Naftec tutte e 4 i rilasci cartografici. Tendenzialmente diciamo vengono acquistate un rilascio cartografico l'anno. L'altro aspetto, a mio avviso, da osservare è che fra il rilascio del database cartografico di Naftec e il momento in cui diciamo poi il software o il navigatore viene messo sul mercato intercorre un certo tempo che è necessario per elaborare il dato, per fare un'interfaccia grafica, quindi per sviluppare delle applicazioni. Naturalmente tra gli aggiornamenti ci saranno gli inserimenti di nuove vie, l'aggiornamento anche della circolazione, quindi che ne so, un senso unico che diventa un doppio senso o viceversa. Questa è la normalità forse del vostro lavoro. A che cosa state guardando e che cosa state facendo di innovativo in questo segmento? Quello è senz'altro diciamo un lavoro che possiamo definire di manutenzione, va a raccogliere appunto tutte le variazioni sul campo. In termini di evoluzione, in questo contesto come dire, tecnologico in continua evoluzione, appunto, dove per noi la mobilità costituisce un aspetto fondamentale, un paradigma, e quindi diciamo noi continuiamo a porci come portatore di proposte di stimolo un po' per tutta l'industria. Per esempio diciamo il set di attributi che abbiamo raccolto e integrato nella banca dati specifico per i pedoni questa volta, diciamo è appunto un classico esempio in questo senso qui. Quindi questo prodotto nuovo abilita la navigazione pedonale e o la navigazione che alterna un percorso in auto a un percorso a piedi, quindi la possibilità diciamo di ricevere informazioni su determinati vicoli piuttosto che parchi e o anche mezzi pubblici per esempio. Questo è un esempio diciamo a mio avviso innovativo, insomma questa navigazione che viene definita in gergo multimodale. Ma aggiungerei poi una serie di funzionalità anche orientate alla sicurezza, quindi per esempio a fornire informazioni predittive sulla strada, penso al conducente diciamo, che viene avvisato se per esempio nei prossimi 400 metri c'è una curva pericolosa o comunque diciamo, determinati problemi specifici legati al tessuto stradale. Ma anche diciamo, informazioni oppure come dire, evoluzioni di natura puramente grafica, che possono facilitare l'utilizzo del navigatore satellitare, penso per esempio a dei punti di riferimento in 3 dimensioni che possono avere una valenza sia per la navigazione stradale che per la navigazione pedonale, quindi un punto di riferimento in 3 dimensioni può costituire come dire, un punto di riferimento poi per l'utente finale che sta navigando. Certo, un conto è vedere su una mappa in 2 dimensioni un incrocio magari con non solo 2 strade, ma più strade, uno svincolo autostradale, un conto è vederlo invece in 3 dimensioni, ci si rende conto molto bene di come sono dislocate le strade. Voi, come del resto tutto il mondo della navigazione, state guardando con particolare attenzione, come una normale evoluzione di questo settore, ai cosiddetti servizi basati sulla navigazione, quindi la navigazione è un po' la base di una serie di nuove cose che stanno arrivando sul mercato. Ecco, per servizi basati sulla navigazione che cosa intendete? Sì, diciamo la location o comunque diciamo il punto fisico dove si trova l'utente in un determinato istante è un parametro fisico come del resto il tempo. E non c'è dubbio diciamo, che se utilizzata bene questa informazione può essere rilevante e può portare un grande valore sia per le applicazioni diciamo, per gli utenti finali poi residenziali che in un contesto più business, più enterprise. La navigazione satellitare, se vuoi, è una delle categorie che afferiscono a questo insieme di servizi basati sulla localizzazione. Noi, questo universo è piuttosto articolato, diciamo, ecco, la navigazione satellitare è la categoria più nota, è quella che da un punto di vista di numeri e di volumi e di percezione quella più conosciuta. Però noi abbiamo individuato diverse categorie, diciamo, ti faccio degli esempi, una categoria più riferita ad un contesto sociale, quindi la possibilità di localizzare degli amici su una mappa, poi magari raggiungerli attraverso una navigazione pedonale, piuttosto che delle chat basate sulla localizzazione, oppure addirittura altri contesti più di natura business, quindi penso a una gestione flotte oppure a una gestione della forza lavoro per ottimizzare le risorse in un ambito più appunto enterprise, o una categoria legata agli aspetti della sicurezza, quindi la possibilità di localizzare dei familiari e perché no anche animali domestici o veicoli, e poi ne vedo un'altra che è una categoria più emergente, se vuoi, è quella legata a un contesto puramente commerciale e quindi la possibilità di veicolare delle informazioni pubblicitarie anche basate sulla localizzazione dell'utente. Per esempio l'utente finale può ricevere un coupon e su questo coupon c'è una certa scontistica, per esempio in un ristorante che si trova in prossimità. Sì, quella della pubblicità basata sul luogo, sulla localizzazione e in particolar modo sul luogo dove si trova la persona che utilizza questi servizi è un segmento di cui si discute da tempo, si discute molto e sul quale molti prevedono sviluppi molto interessanti per i prossimi anni. Esistono già dei servizi che sfruttano la localizzazione per erogare pubblicità o se ne sta parlando come una prossima frontiera? Beh, diciamo se ne parla sicuramente come una frontiera emergente, soprattutto in Europa. E negli Stati Uniti esiste qualcosa di più consolidato, in particolare penso a un nostro cliente, un nostro partner, Garmin, che effettua una sorta di scambio con i propri clienti, quindi diciamo fornisce delle informazioni di traffico in modo gratuito e contestualmente diciamo i clienti di Garmin accettano una forma pubblicitaria sul proprio device. E naturalmente diciamo il modello di business è messo in moto dalle inserzioni pubblicitarie. Questo è uno dei possibili scenari, è uno dei possibili modelli di business che si stanno analizzando, si stanno studiando, ecco, però diciamo ne esistono e ne possono esistere comunque altri che non siano necessariamente soggetti ad uno scambio di questa natura. Ecco. Immagino che per questi servizi sia necessario sempre più un navigatore satellitare connesso alla rete internet. Sì, questo è senza dubbio, insomma, e questo fa parte un po' di quella che stiamo registrando come evoluzione in ambito navigazione satellitare, diciamo. Quindi la connessione diventa sempre più un paradigma per offrire delle soluzioni di natura dinamica, insomma. La navigazione satellitare, per come l'abbiamo conosciuta noi, se vuoi, è un servizio di natura statica. Io inserisco il punto di destinazione e navigo verso il punto B partendo dal punto A. Però non c'è nessuna interazione con una rete trasmissiva. Questo, se vuoi, è anche uno dei motivi fondamentali, a mio avviso, per il quale lo smartphone, che è per definizione connesso, sta avendo un grande successo come device per offrire navigazione satellitare. Tu che osservi il mercato da vicino, da addetto ai lavori, immagini che nei prossimi mesi, magari già da quest'anno, ci saranno delle offerte di navigatori e di accordi con i gestori di telefonia mobile per fornire pacchetti di connettività assieme al navigatore? Sì, guarda, io sto osservando una grandissima attenzione, grandissimo interesse da parte degli operatori mobili verso questo settore. E quindi ti dico senz'altro sì, perché si stanno studiando una serie di ipotesi, una serie di appunto di approcci, di modello di business, e l'operatore mobile diciamo sta cavalcando questo filone, questo tema. Bene, io ringrazio Cristiano Ranalletta per essere stato con noi, buon lavoro, ma visto il periodo soprattutto buone vacanze. Ciao, grazie Enrico, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori e grazie a te, buone vacanze. Prima sbagliando ho detto più volte servizi basati sulla navigazione, no, si dice servizi basati sulla localizzazione, a volte traducendo si fanno degli errori e sono i cosiddetti Location Based Services, LBS, così parlano gli addetti ai lavori e purtroppo parlando con gli addetti ai lavori a volte ci si mette in testa un termine che si fa fatica a tradurre. Di questo abbiamo parlato e se ricordate a 2024 abbiamo fatto degli esempi che venivano ricordati anche poco fa da Cristiano Ranalletta di Naftec, esempi che abbiamo raccontato nel concreto con prodotti e soluzioni fatte anche da aziende italiane che hanno avuto molto successo. Questo è un mercato che offre, se la fantasia ci aiuta, tantissime strade per innovare, per creare nuovi servizi. Un'ultima domanda a Massimo Morandi per concludere, visto che ho iniziato parlando di prezzi, che differenza c'è tra un navigatore da 100 euro, 129, 159 euro e un navigatore, vedo che oggi ci sono prezzi addirittura da 400, 500, 600 euro, Massimo? Beh, la differenza non è una sola, le differenze sono tante. Naturalmente cominciamo a dire che i navigatori entry level, quelli che si pagano meno degli altri, di solito hanno solo le mappe dell'Italia. Tanta parte del prezzo lo fa lo schermo, i pollici. Più si cresce nel numero di pollici, più il navigatore diventa costoso. È proprio un fattore di componentistica. Poi molti integrano anche altre funzioni, ad esempio tutte le funzioni multimediali. Perché il navigatore, proprio perché in teoria ci fa compagnia per tutto il viaggio, possibilmente anche un viaggio lungo, e poi scende dalla macchina con noi, può suonare musica, quindi può suonare gli MP3, può contenere le nostre foto, quindi possiamo anche scorrere le nostre foto, tutta la rubrica telefonica, perché poi alla fine via Bluetooth, e questa è un'altra caratteristica che non hanno tutti, si può collegare al telefonino e funzionare da viva voce in macchina, quindi tutte funzioni che piano piano gonfiano il prezzo fino ad arrivare addirittura alla TV digitale. In digitale terrestre. Addirittura. E ovviamente qui i prezzi costano perché le funzioni salgono, salgono e salgono. Ah, quindi diciamo che il navigatore tenta di fare altro rispetto a quello che abbiamo detto all'inizio. Rimane sempre il dubbio, ma mi sembra che a questo punto una buona parte del dubbio sia chiarita. Fino a qualche tempo fa, quando i primi telefonini integravano il GPS, c'era chi diceva nel giro di poco tempo il GPS verrà integrato nei telefonini e il nostro navigatore sarà il telefonino, quindi lo strumento navigatore satellitare non avrà più senso. Mi sembra di capire che invece non è così. No, per il momento non è così, anche perché, ripeto, sono ancora dei dispositivi piuttosto diversi. Infatti anche le case produttrici di telefoni cellulari hanno spinto molto sulla navigazione pedonale, perché è ovvio, nel momento in cui tu cammini hai bisogno di molte più informazioni, di molti più stimoli su un breve percorso. Quando invece tu viaggi, sei in auto, molto probabilmente le distanze si coprono con maggior velocità. Se cammini devi sapere dov'è la vetrina del negozio, dov'è un bancomat, dov'è una farmacia, dov'è un albergo, un ristorante. Hai bisogno che, diciamo, per terra, siccome pollicino, siano disperse molte più informazioni rispetto a un viaggio con il navigatore. In realtà poi è chiaro che nel momento in cui anche i navigatori avranno la connettività, probabilmente i due mondi si avvicineranno ancora un po' di più. Quello che molti dicevano in passato è anche che i navigatori di questo tipo, i personal navigator che noi utilizziamo in auto, sarebbero stati sconfitti da un'avanzata tecnologica dei navigatori fissi nelle auto. Questo fino ad ora non è assolutamente avvenuto, anzi sembra che saranno proprio i grandi marchi che oggi producono i personal navigation device a fare accordi con le case produttrici di automobili per integrare i loro dispositivi direttamente nelle auto che usciranno dalle fabbriche. Un po' come è successo per le autoradio, oramai sono tutte integrate, per alcuni più appassionati del mondo audio con grande dispiacere, perché si può fare ben poco, non si possono fare grosse trasformazioni. Massimo, io ti ringrazio per essere stato con noi, ti auguro buon lavoro, ma soprattutto visto il periodo, buone vacanze, a presto. Grazie, un saluto e buone vacanze a tutti. E noi chiudiamo in pochi secondi questa puntata di 2024. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ci risentiamo tra 7 giorni, sempre il sabato nel pomeriggio di Radio 24 o la domenica sera. Buon ascolto con i nostri programmi, buone vacanze, anche buon viaggio. You are disconnected.